Diamo il buonasera e il benvenuto ad Enzo Ciconte, professore universitario, scrittore, con cui oggi andremo a parlare di un suo saggio uscito recentemente che ci è piaciuto molto, l'ho letto quest'estate, mi ha anche, per quanto poi i temi siano pure dei temi importanti e anche complessi, mi ha anche divertito in parte perché va a raccontare una storia di questo paese. E non solo, un po' particolare. Il libro si chiama Classi pericolose. Benvenuto ad Enzo Ciconte. Buonasera. Grazie, grazie a voi, buonasera. Allora, cominciamo. Il sottotitolo del libro è il racconto, una storia sociale della povertà dall'età moderna a oggi. Ci verrebbe da riassumere Pubblicato dalla Terza, pubblicato dalla diciamo. Terza, certo, lo avrei detto tutto insieme. Comunque, volevo dire, un libro che potremmo riassumere come le varie destre, e non solo le destre di governo, non si sono inventate niente. E quindi, per quanto riguarda la costruzione e anche molto del dibattito politico degli ultimi 10, 15 anni, 20 anni che sta intorno al discorso del decoro, della povertà, della sussistenza, è un dibattito che prosegue così com'è da almeno 500-600 anni. A lei la domanda. Esatto. La vera domanda è esattamente questa. È possibile che dopo 5 secoli, 5, non sia possibile mettersi attorno a un tavolo e decidere senza paratie, come dire, ideologiche, che cosa fare per questi problemi? È possibile che dopo 5 secoli dobbiamo inseguire sempre le politiche della repressione che hanno fatto fallimento? Ieri come oggi. A che cosa serve questo accanimento e questo incaponimento su queste politiche securitarie che non danno risultati? Questa è la questione vera. Il libro cerca di dare una spiegazione a questa domanda. Cominciamo appunto dalle varie parti del libro, cioè, no, allora, cominciamo con il racconto che già dalla fine del Cinquecento si procedeva alle espulsioni nelle città. Il Daspo urbano è una forma di espulsione dalle città, il reato di immigrazione clandestina è una forma, viene usato per espellere le persone dai paesi, ci sono anche gli allontanamenti coatti. Per iniziative dei prefetti dalle città, ci sono, attualmente parlo, però appunto l'utilizzo della cacciata, dell'allontanamento degli indesiderati, anche questa appunto è una pratica ormai secolare. E lei lo racconta, e tu lo racconti molto bene, no? Come alcuni di questi soggetti poi sono sempre gli stessi, vagabondi, zingari, e via dicendo. Come inizia il tutto? Quando inizia? Come inizia? Cominciamo a raccontare qualcosa che poi troviamo nel libro. Nel libro. Inizia, ripeto, a metà del Cinquecento, quando si comincia a pensare diversamente dal passato che il povero, lo straniero, siano soggetti pericolosi, anzi classi pericolose, diversamente dal passato, quando soprattutto il povero era addirittura sacralizzato dalla Chiesa, perché era considerato lo strumento che aveva il ricco per poter accedere al paradiso. Cioè il ricco, nel momento in cui faceva la carità al povero, poteva accedere al paradiso. Dalla sacralità si è passato proprio alla criminalizzazione del povero, perché si diceva: se tu sei povero, la colpa è tua. E questa viene fuori da un cambiamento che avviene in Germania con il protestantesimo, con Calvino, con Lutero e con l'avvio della politica di crescita della borghesia locale che comincia a dettare legge e arriva dappertutto, arriva anche in Italia, addirittura coinvolge anche la Chiesa cattolica che non riesce a mettere un argine a questa pratica, tanto è vero che ci sono alcuni papi che invitano i parroci romani a non permettere ai poveri di chiedere l'elemosina davanti alla Chiesa. Quindi c'è stato uno sconvolgimento in quel periodo, ed è in quel periodo che i poveri e gli stranieri diventano classi pericolose. Un'altra delle, appunto, delle curiosità è un altro dei ruoli che hanno nella costruzione, no, del soggetto di classe pericolosa, c'è la Chiesa, come stavi raccontando, ma poi c'è la grande svolta e come avviene con la società capitalistica, in cui il vagabondaggio o anche l'artista di strada, come viene raccontato, cominciano a diventare soggetti pericolosi in quanto improduttivi. E qui c'è un altro passaggio, no? Un'altra trasformazione, un altro passo in avanti verso queste politiche securitarie, giusto? Giustissimo, perché proprio in quel periodo, quando si privatizza tutto, si mettono i recinti alle terre che una volta erano pubbliche, si comincia a dire che il lavoro è l'asse portante della società, il lavoro e basta, arrivando a delle aberrazioni incredibili. Se tu pensi che c'era un certo Palmieri, che era un aristocratico, un latifondista pugliese, che ad un certo punto disse che il contadino doveva lavorare per quanto tempo il sole rimaneva sull'orizzonte. Il tempo in cui il sole rimane sull'orizzonte è dall'alba al tramonto. Perché questo? Perché se lavorava di meno, il contadino diventava ozioso e di conseguenza produceva dei vizi, produceva dei pericoli. Quindi il contadino doveva lavorare per tutto l'arco del tempo. Naturalmente questo grande signore pugliese, questo latifondista aristocratico, ometteva di dire che c'era l'ozio degli aristocratici, l'ozio dei borghesi, che naturalmente non veniva censurato dalle autorità del tempo. Loro potevano osare quanto lo volevano, il povero contadino che si riposava dalle fatiche di una giornata di lavoro non poteva farlo, quindi era un'aberrazione, era un modo sbagliato di affrontare una questione che era normale, che uno dopo un lavoro pesante, peraltro, quello del contadino all'epoca era un lavoro pesante perché non c'erano strumenti tecnici che ci sono oggi, dopo una giornata di lavoro pesante non poteva neanche avere momenti di tranquillità, di riposo o addirittura, dico una bestemmia, di svago, di allegria. Tanto e vengono appunto anche la figura dell'artista di strada, no? Esatto. del vagabondo, vengono in qualche modo stigmatizzati perché rappresentano anche un concetto di libertà, di persone che non hanno bisogno, no, del salario, che non hanno bisogno, esatto, di essere forza lavoro, perché la società in quel momento induce qualsiasi persona, in questo caso maschia, ad essere comunque materiale, appunto, produttivo, ad essere forza lavoro, mentre noi i vagabondi, gli artisti, e ad essere irregimentati, questo era il problema. Questi artisti di strada, quelli che andavano a fare i lustrascarpe, quelli che andavano in giro a suonare gli organetti, o quelli che facevano i circensi, cioè che portavano i circhi in giro per l'Europa, erano guardati male esattamente per questa ragione. Davano scandalo pensare che ci fossero delle donne ballerine che si esibivano davanti a un pubblico. Davano scandalo perché erano, come dire, amati dai bambini, dai giovani che andavano matti per questi animali, per questi nani che facevano ridere, ed erano soggetti considerati pericolosi, messi alla gogna, trattati male, con uno stigma incredibile. Era una società bacchettone, era una società che cercava di limitare le libertà, perché non consideravano produttivo quel tipo di lavoro. Guarda, io appunto nel suo libro ci sono mille riferimenti all'attualità e quindi, nel senso, io non riesco neanche e non li faremo neanche tutti, perché tra l'altro siamo qui anche per consigliarne la lettura, però appunto ci sono un po' tutte le stesse figure che oggi noi troviamo, come raccontavamo, stigmatizzati per i motivi diversi, che possono essere in chiave criminale o in chiave ideologica, no? Quando parliamo del decoro e via dicendo, e quindi troviamo, come raccontavamo, no? Nei vari tipi di stage, gli artisti di strada, i vagabondi, i zingari, ci sono anche in qualche modo le donne, ma anche il ruolo, no? Dell'assistenzialismo nelle città, il ruolo dei parroci, c'è il carcere. Un'altra delle cose che invece, appunto, che dei temi contemporanei, che è stato. Cominciava a essere tematizzato è quello dei bambini migranti. Di cosa Bambini parliamo? migranti, sì. Prego. Sì, sono. Non ho capito. Allora, appunto, raccontiamo di cosa parliamo con i bambini quando si parla di bambini migranti, perché anche qui c'è il ruolo della Chiesa, perché se da una parte abbiamo la trasformazione della società capitalistica che va ad accelerare, no, questi processi di stigmatizzazione di classe, dall'altra parte c'è anche la Chiesa che fa lo stesso. I bambini migranti avevano una grande capacità di spostarsi, nel caso in cui racconto io dei libri, dal nord del paese verso la Francia, verso i paesi del nord Europa, e facevano i lavori più incredibili, dallo spazzacamino al nettopino. Lavoravano nelle fabbriche francesi molto, come dire, molto pericolose dal punto di vista sanitario e quindi della salute e della salubrità, ma i bambini migranti erano anche quelli che andavano a fare dei lavori che altri non riuscivano a fare, e tuttavia venivano tutti quanti compressi. Il problema vero di quegli anni e di quelle settimane era il fatto che c'era una società che cercava di criminalizzare questi lavori, ma nello stesso tempo aveva paura di un'altra. La paura che aveva è che idee rivoluzionarie, idee non conformi all'ideologia del tempo potessero circolare non soltanto in Italia, ma in Europa, e quindi venivano represse, così come venivano represse le manifestazioni politiche e sindacali che a metà dell'Ottocento in avanti cominciano ad affermarsi anche in Italia. Cioè questi poveri ad un certo punto decidono di non stare più zitti, ma di parlare. Parlano in due modi: in modo spontaneo, irriflessivo, con i moti per il pane, per esempio, dando l'assalto ai forni, dando l'assalto al municipio, quindi una sorta di jacquerie, per dire, per usare un'espressione francese. E poi l'altro modo di protestare è l'organizzazione nelle cooperative, nei sindacati e nei partiti, che cominciano a raccogliere la protesta di questi soggetti che erano esclusi dalla società o che erano poveri. Quindi c'è una, come dire, una presenza molto attenta e molto forte dei partiti e dei sindacati verso queste categorie, e questo naturalmente allarmava i ben pensanti, allarmava la borghesia, allarmava chi all'epoca era al comando delle varie realtà statuali. Nel suo libro ovviamente si va oltre il 500, si arriva fino al Sì. 900, appunto nel raccontare, no, come le classi, la costruzione, che poi sono le classi No, subalterne. posso Prego. dire una cosa Certo. ai nostri lettori e ai nostri ascoltatori, che il libro inizia con un vecchio che trascina la sua roba, cioè una busta dove ha e tutti i suoi averi, qualche maglione, qualche coperta, e va per dormire nella sua panchina, nella panchina che tutte le sere lo ospita. Quella sera la panchina, nonno, è la stessa perché un sindaco ha messo il manignone. Siamo a Verona, 10 anni fa. Oggi apprendiamo che il nuovo sindaco di Verona, Tommasi, ha avuto la forza di togliere quei maniglioni e di rendere quelle panchine quello che devono essere, un luogo anche di socialità, un luogo in cui la gente possa sedersi tranquillamente e, se è il caso, anche perfino sdraiarsi. Quindi È un libro che parte dal 500, ma arriva ad oggi, arriva alla contemporaneità. Esatto, anzi, secondo me va proprio a raccontare la contemporaneità proprio attraverso il racconto nella storia, ovviamente, lo dicevamo all'inizio, le politiche securitarie, i discorsi da destra, ma non soltanto da destra, sui comportamenti, sulle classi subalterne, sono sempre gli stessi da secoli. Sfumano ovviamente a seconda del linguaggio della contemporaneità, ma poi se arriviamo nel merito delle questioni parliamo sempre delle stesse. Questi discorsi li stiamo sentendo anche in questi giorni, no? Quando si parla di reddito di cittadinanza, sull'abolizione, come raccontavi tu adesso con l'operazione che è sembrata rivoluzionaria per la stampa di contemporanea, no? Quello che ha fatto ieri il sindaco o l'altro ieri il neo sindaco di Verona Damiani, di togliere quei maniglioni dalle panchine per poter permettere alla gente anche di starci in più persone, non soltanto di vagabondarci casomai, no? In questo senso sembrano tutti piccoli gesti rivoluzionari, quando rivoluzionari tra l'altro non lo sono. Appunto, nella storia c'è scritta la storia di oggi. Questi personaggi non si inventano niente, la stampa, anche quella democratica, lo vediamo spesso e volentieri anche all'interno di giornali, appunto quelli tra virgolette di sinistra o progressisti, che quando vanno a raccontare i nostri centri storici le vanno a raccontare sempre in chiave indecorosa e additando al povero, al vagabondo, al senza tetto il problema. Nei dintorni della stazione di Roma, noi parliamo di Roma e quindi raccontiamo Roma, nei dintorni della stazione di Roma, nel centro storico di Roma, c'è sempre la figura del senza tetto che dorme lungo le mura aureliane come di un problema, come se non di un pericolo. Se siamo all'oggi, questo libro parla di ieri, ma parla anche appunto dell'oggi. C'è questa continuità nei secoli. Impressionante, no? Sì, è la cosa che ricordavo prima. 5 secoli le stesse politiche, non è cambiato nulla, non sono riusciti. Allora, ripeto, la domanda, se quelle politiche non hanno funzionato, vogliamo continuare con quelle politiche per prendere qualche voto? Per vendere qualche giornale? E che cosa risolviamo? Assolutamente nulla. Chi governa deve avere una capacità di risolvere i problemi, non di denunziarli. Tocca all'opposizione denunciare i problemi, ma chi governa deve risolvere i problemi. Come si risolvono questi problemi? Le politiche che sono state messe in atto fino ad oggi, insisto con questa cosa, non hanno funzionato. E io nel libro spiego perché non hanno funzionato. Cerco di portare avanti argomenti, fatti, realtà, poco conosciute o addirittura non conosciute, che mettono in evidenza questo elemento, il fallimento di queste politiche. E il fatto che c'è una disumanità nei confronti di questa gente, di questi soggetti, considerati classi pericolose, che è una cosa indecente, incredibile. Oggi si fa tutta una lotta contro il reddito di cittadinanza. Ma avete mai sentito una lotta seria nei confronti dell'evasione fiscale? Se ci fosse l'evasione fiscale risolta, cioè una lotta vera nei confronti dell'evasione fiscale, l'Italia non sarebbe in queste condizioni. Ci sarebbe lavoro, ci sarebbe sviluppo economico, non ci sarebbe bisogno del reddito di cittadinanza, perché quelle persone che oggi usufruiscono del reddito di cittadinanza possono andare a lavorare, invece questa cosa non è possibile, e possono andare a lavorare con uno stipendio dignitoso e in condizioni dignitose, perché si dimentica questo fatto. Oramai il meccanismo del lavoro non è più quello di prima, è cambiato e bisogna prendere atto di questi cambiamenti e vedere come si governano questi cambiamenti. Andando verso la conclusione, perché come dicevo potremmo parlarne per ore di questo libro, perché ci sono tantissimi spunti di ragionamento, un'altra delle sezioni che troviamo è quella del carcere. Il carcere in Italia, ma non soltanto in Italia, anche in Europa, come viene raccontato, diventa uno strumento di contenimento sia per i soggetti migranti in questo caso, ma anche appunto per tutti coloro che non venivano irregimentati. Diventa appunto uno di quegli strumenti. Sì, il carcere E le politiche inizialmente era repressive, ecco, mi sfuggiva questa. sì, il carcere inizialmente era come dire, messo in piedi, tenuto in vita per cercare di mettere da parte gli elementi che avevano commesso dei reati, e dei reati molto molto gravi, dall'omicidio al furto alle rapine. Da questo punto di vista, il carcere, la detenzione, cioè l'emarginazione, è diventata generalizzata. Perché oramai si manda in carcere chiunque, tranne i potenti, questo lo voglio sottolineare, raramente i potenti finiscono in carcere, esattamente per una politica repressiva e per una politica di esclusione. Quando non sai risolvere un problema sociale, lo risolvi con la legge che lo manda in carcere. Anche qui non è una soluzione. Tu eludi il problema, crei delle distorsioni, delle disuguaglianze, delle grandi infelicità in questi soggetti, ma non risolvi il problema. Il carcere, se non è ben congegnato, non risolve le questioni, anzi produce suicidi, produce infelicità. E quando uno esce poi dal carcere non riesce ad essere risocializzato, perché il carcere non è stato concepito e non è stato abitato per fare in modo che poi il soggetto, una volta espiata la pena, pagato il debito con la società, possa reinserirsi nella società. E questo è un altro grande problema. Accanto al carcere c'è un'altra grande questione che si chiamava manicomio, cioè la gente che disturbava veniva mandata in manicomio, indipendentemente se fosse matto oppure no, era escluso, tolto dalla vista delle persone. Tutto questo qua, appunto, perché poi tutto questo va di pari passo ovviamente con il progredire della società capitalistica. Io ogni tanto lo ricordo perché poi possono sfuggire alcuni collegamenti. Veniva raccontato nel tuo libro come nel decennio tra 1820 e 1900, 1820 e 1830 il solo Tribunale Criminale di Roma, su circa 3.600 condanne, la maggioranza dei condannati alla galera o ai lavori forzati appartenevano alle professioni più umili, contadini, piccoli artigiani, gente delle campagne circostanti di Roma e via dicendo, perché proprio la repressione comincia a trasformarsi, come poi viene ben spiegato. Non è soltanto una misura che va a colpire gli ultimissimi, ma si cominciano a colpire i componenti, appunto, delle varie classi sociali in blocco. Sì, Quindi una. Prego. venivano colpiti i più deboli. Venivano colpiti i più deboli, i marginali, quelli che stanno sotto nella scala sociale. Su questo non c'è dubbio alcuno, sono i dati che lo confermano. Non è un giudizio questo, è una constatazione di un fatto che risulta agli atti. Quando sono state scritte come dire, queste schede, queste tabelle, ovviamente venivano scritte per avere contezza della realtà, e questa è la realtà. Allora, andando a chiudere, questa è un po' la domanda di rito che facciamo a tutti quanti i nostri ospiti. Un libro letto ultimamente da suggerire, magari a tema che appunto che vorrebbe suggerire a chi ci ascolta e a chi ci ascolta. Un libro di che genere? Un libro, guarda, qualsiasi, nel senso, una lettura fatta ultimamente che le è piaciuta, le è interessata e che le piace in qualche modo promuovere. Allora, le do un libro che stavo leggendo in questo momento di Riccardo Stagliano, Giga Capitalisti, perché parla di questi grandi uomini, Bezos, Musk, Zuckerberg, che hanno una possibilità, loro sono ultra ricchi, di possedere dei grandissimi capitali, e c'è una differenza enorme tra questi soggetti che ho richiamato prima e i poveri di cui abbiamo parlato in questo momento. Forse questo libro aiuta a vedere l'altra faccia della medaglia, cioè una disuguaglianza sociale impressionante e incolmabile se non cambia il modello di sviluppo capitalistico della nostra società, se non cambia questa politica neoliberista che ha consentito e consente queste immense fortune, queste immense povertà che ci sono non soltanto in Italia ma nel mondo. E con questo andiamo a salutare Enzo Ciconte, abbiamo parlato del suo Classi Pericolose, è uscito per La Terza, sono 312 pagine, il costo se non sbaglio intorno ai 19 o 20 euro, vi consigliamo la lettura e a presto, arrivederci, ciao. Arrivederci, buona giornata, ciao.